penso più a niente, mentre guardo stagioni che passano lentamente, inutilmente. E non voglio più niente, mentre l'ultima voglia è che tutto scorra lentamente, come ha sempre fatto, mai più. Forse qualcuno le ascolti, qualcuno le compri. Sono solo ricordi che lo so, si non compri.